con tra l'altro il medico De Monte, che è colui che ha assistito le ultime ore di vita di Eluana Englaro, che sempre Repubblica dice: aiutai Eluana a morire, da allora la mia vita non è più la stessa. La posizione ben diversa, ma comunque ampio risalto, è data da Avvenire, un anno dopo per la vita. Questo è il titolo di apertura di prima pagina, e ci sono ben quattro pagine all'interno, con anche il direttore Marco Tarquinio che fa un editoriale. È semplice stare dalla parte giusta, ovviamente la posizione è ben diversa rispetto a quella di Beppino Englaro. Il 9 febbraio 2009 l'addio ad Eluana, forse entro l'estate il via libera alla legge. Che cosa fa Avvenire? Intervista le suore che per 17 anni si sono occupate di Eluana Englaro dopo l'incidente. Così abbiamo accompagnato Eluana, come si può non amare chi è inerme come un neonato? È suora Albina che parla e che dice che fosse viva era un'evidenza, non solo perché respirava naturalmente senza alcuna macchina. E poi quando la si chiamava per nome reagiva con una quasi impercettibile agitazione che però noi coglievamo, e la sua pelle sembrava assaporare le carezze. Una donna fisicamente sana, non magra, mai ammalata, con una pelle rosea. Insomma, questo è il tema con il quale voglio concludere, che trovate sviluppato sui giornali. La vicenda di Eluana Englaro la potete leggere su Repubblica, la potete leggere su Avvenire, con approcci ovviamente diversi. Io vi invito ancora a votare il nostro sondaggio che trovate su radio24.it o sole24ore.com. L'ultimo è il caso, le accuse di pantomima all'aggressione a Berlusconi in Piazza Duomo. Insomma, siamo un paese dove ci piacciono le teorie dei complotti. Siamo qui alle 8 e 16 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori. Eccoci al momento dell'economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, buongiorno. Alessandro, buongiorno. Ben trovata. Economia e truffe stamattina. Ah, bene, benissimo. Sei felice? Prendiamo appunti, come sì, al solito. Ti hanno mai rubato il portafoglio? Accidenti, no, guarda. Facciamo le corna, facciamo tutti gli scongiuri e non toccarti niente davanti a me, cortesemente. Te la racconterò fuori onda perché è troppo lunga, ma è molto spassosa. Sì. Una volta pensavo che ti avessero rubato il portafoglio. E invece no. Ma guarda, io in tutta libertà ho comprato un paio di scarpe e ho lasciato il mio portafoglio alla commessa. È una vicenda talmente lunga, di cui mi vergogno, ma privatamente te la racconto. Va bene, allora dopo me la racconti, io la sintetizzo domattina per i nostri ascoltatori. Allora, perché oggi parliamo del furto del portafoglio? Perché in realtà molto spesso ovviamente ci secca un'avventura di questo genere, non tanto per i soldi che ci possono essere dentro, quanto per tutti i documenti che ci possono essere dentro. E quanto ci costa poi rimetterci, come dire, in fila al comune per rifare la patente, oppure per rifare la carta d'identità, per la verità, o rifare la patente, andare a rifare per esempio la tessera sanitaria, andare a rifare la carta di credito se c'è anche questa dentro, oppure il bancomat. Complessivamente oggi parliamo del furto di identità, perché tutte le campagne che si fanno per informare i cittadini di questo pericolo non sono mai sufficienti, a quanto pare, anche perché le tecniche dei malviventi sono sempre più sofisticate. Abbiamo preso spunto da un articolo che ha scritto la collega Angela Manganaro sul Sole 24 Ore di sabato, dove racconta di una ragazza moldava di 27 anni, quindi giovanissima ma già molto scaltra, che ha rubato l'identità di un trentenne disabile, ne ha fatto il suo datore di lavoro per ottenere un permesso di soggiorno come badante. La madre di questo disabile, pensate, invalido al 100%, ha ricevuto una lettera dall'INPS dove gli viene chiesto di pagare i contributi per la badante, regolarizzata a settembre a tutti gli effetti, nell'ambito della sanatoria, appunto, di cui tra l'altro abbiamo parlato tante volte. E peraltro la mamma di questo ragazzo, andando a sporgere denuncia, ha scoperto appunto che ci sono moltissimi altri casi come questi. E allora, come lo scopriamo il furto d'identità se ci capita di imbatterci in una frode di questo tipo, e come lo combattiamo? Chi abbiamo chiamato questa mattina? Ovviamente un amico di Soldi e Dintorni, il colonnello Umberto Rapetto della Guardia di Finanza, comandante del GAT, il Nucleo Speciale Frodi Telematiche, ed è uno dei massimi esperti di pirateria e frodi informatiche. Colonnello Rapetto, buongiorno. Buongiorno. giornata a voi. Allora, sono sempre più numerosi, da quello che capiamo, casi simili a quello che abbiamo raccontato. Io ho un dato che si rifà per la verità qualche anno fa dell'osservatorio CRIF. Sono 17.000 casi di furto di credenziali accertati ogni anno nel nostro paese. Quanto è diffuso questo fenomeno, colonnello, in Italia, e quali sono i casi più originali e anche più, come dire, stravaganti nei quali si è imbattuto nei suoi anni di carriera, colonnello? Perché so che lei ha sempre delle cose molto divertenti da raccontarci. Allora, intanto cominciamo con una terribile notizia: il fenomeno è in crescita, si sta sviluppando alla velocità della luce, perché purtroppo nelle nostre case sono arrivati gli attrezzi infernali che vanno sotto il nome di stazione multifunzione, in pratica una stampante che in realtà è capace di fare anche il fax, è capace di riprodurre scansioni e quindi di fare lo scanner. E questo attrezzo infernale viene utilizzato in maniera fraudolenta da moltissime persone che arrivano al punto di realizzare documenti in casa, poi li stampano in bianco e nero per dire ne ho la fotocopia con me, e mettono la loro fotografia e i dati di chiunque. Tra i casi più bizzarri, vediamo l'aspetto tra virgolette ludico, c'è stato un criminale di origini partenopee che è stato capace di rubare l'identità ad una serie di avvocati che avevano soltanto la colpa di essere presenti nell'elenco che ciascun ordine pubblica anche online. E quindi che cosa aveva fatto questo signore? Era stato capace di trovare nomi, cognomi, luoghi e dati di nascita, aveva trovato gli indirizzi e con quei dati era stato capace di creare tutta una serie di identità fittizie a nome di questi soggetti, ha aperto addirittura dei conti correnti, questi conti correnti che gli servivano per ricevere denaro che rubava con altre sue epocali gesta di carattere informatico, rubava con il phishing soldi su conti correnti di persone che gli affidavano involontariamente le credenziali e che lui adescava promettendo filmati erotici da gente su Facebook è caduta in questa trappola, faceva click, si scaricava un filmato, il computer veniva infettato. Quanto è riuscito ad andare avanti con questa rete, in sostanza, truffaldina che aveva messo in piedi? È andato avanti un anno e mezzo finché non è inciampato in noi, e quindi devo dire che per fortuna la Guardia di Finanza ha dimostrato di avere più fantasia di quante non ne potessero avere i bricconi. Teniamo conto che in uno scenario di questo tipo la raccomandazione da fare a tutti è di avere grande cautela nel dover riempire anche i moduli che ci vengono proposti per, che ne so, guadagnare un 10% di sconto. Sì. E allora siamo pronti a dare qualunque confidenza, a descrivere i nostri gusti e le nostre abitudini, a fornire magari anche un indirizzo secondario nel caso in cui non ci trovassero al primo. E questo naturalmente comporta un vantaggio incredibile per quelli che malintenzionati non fanno altro che aspettare l'occasione per sostituirsi a noi e metterci magari poi in difficoltà in un secondo momento, perché pensiamo a quanti riescono, presentando semplicemente la fotocopia di un documento, a farlo valere per buono da un impiegato che per la comodità di trovarsi la fotocopia già fatta dice ok, non importa il documento se se l'è dimenticata a casa, intanto ha già la fotocopia, possiamo instaurare, avviare questo, già la pratica. Adesso diamo indicazione, colonnello, anche di quelli che sono i principali sistemi di furto delle nostre credenziali. Mi stupiva molto quello che lei mi raccontava del fatto che questo criminale partenopeo, come l'ha definito, riuscisse avendo rubato i dati di tutti questi avvocati di Napoli, anche ad aprire in grande tranquillità rapporti con le banche, perché sto pensando a quanto oggi facciamo difficoltà ad ottenere credito dal sistema bancario, che lascia in braghe di tela molti imprenditori che non riescono più ad ottenere prestiti e finanziamenti per mandare avanti la loro attività. Poi arriva un criminale e riesce ad aprire conti e magari ad avviare anche prestiti in tutta serenità, come è successo in questo caso, per cui anche qua insomma però questo sarebbe oggetto di un altro tipo di commento, di un altro tipo di trasmissione. Quello che voglio ricordare è che oltre al danno economico che molto spesso questi furti di identità provoca, appunto, bisogna considerare anche quello emotivo, perché spesso le vittime si trovano a combattere anche per affermare la loro buona fede e ricostruire la loro situazione economica bancaria, come probabilmente con Onello sarà capitato a questi avvocati. È stata una situazione abbastanza imbarazzante, perché questi, quando si sono sentiti chiamare, non gli è stato detto semplicemente qualcuno ha aperto un conto al vostro posto, è stato detto ma siete voi che avete rubato i soldi via internet ai poveri malcapitati della tecnica del phishing? E questi sono cascati due volte dalle nuvole, quindi hanno dovuto non solo dimostrare che il conto non era loro, ma che la transazione non era stata effettuata da un computer nella loro disponibilità. E ovvio che è un fenomeno che si continua a diffondersi, è dovuto anche al fatto che non c'è grande cultura di questo rischio. Allora fate bene voi a parlarne, si fa bene ad approfondire questo argomento, si fa bene ad invitare tutti ad adoperare maggiore prudenza e periodicamente a riscontrare la propria, così se vogliamo, presenza in archivi che non dovrebbero ospitare quelle informazioni. Come per esempio il cestino della spazzatura, un archivio del tutto inedito, scopriamo con Onello Rapetto. È una fonte di notizie strabiliante. Esistono addirittura due discipline sportive, mettiamola in questa chiave, che sono quella del trashing, che è quello normale di curiosare nell'immondizia del, che so, del sotto la scrivania di un ufficio, oppure il dumpster diving, quelli che riescono a fare addirittura le immersioni all'interno dei cassonetti o si recano, nel caso proprio più incredibile e sistematico, presso le discariche per andare lì e cercare quelli che sono i documenti. Uno dei gialli più struggenti è sicuramente quello dell'11 di settembre, a parte la drammaticità dell'evento, ma ci fu una corsa a recuperare le carte che potevano trovarsi in mezzo ai detriti e quindi chi partecipò alla gara per lo smaltimento di tutte quelle macerie aveva grande interesse nel recuperare magari dentro una cassaforte o dentro quello che rimaneva di un armadio carte che potevano un domani costituire un vantaggio competitivo per chi deve fare business. Allora, i sistemi per difenderci da tutto questo: intanto magari frantumiamo quanto di più possibile tutte le buste che buttiamo nella spazzatura per evitare appunto che possibili malviventi possano leggere il nostro indirizzo, ma ricordiamoci anche quando cambiamo casa di andare a recuperare la posta vecchia, perché magari rimane lì accantonata e qualche malvivente ci mette le mani. Oltre, per esempio, un altro caso, quando riceviamo una telefonata di un ricercatore di mercato che ci chiede informazioni personali, ovviamente accertiamoci che si accrediti, che si qualifichi molto accuratamente. Non è una cosa facile, perché spesso l'operatore di call center deve rispettare delle performance quasi olimpiche per poter raggiungere il numero di contatti che gli è stato imposto e quindi spesso lo fa molto in fretta. Spesso il target è di persone che magari per l'età oppure semplicemente vincolati a problemi di connessione telefonica capiscono poco quello che gli viene detto e conseguentemente la fretta di dover recitare questa sorta di litania di chi dice stiamo per cambiarvi l'indirizzo, stiamo per cambiarvi l'utenza, il vostro contratto, uno rimane travolto e la preoccupazione non fa così dare peso, attenzione a quelle informazioni invece identificative che sono molto importanti. Uno dovrebbe tenere un block notice forse vicino al telefono e segnarsi, in maniera però diventa una cosa maniacale degna di nemico pubblico. Mi hanno chiamato quel giorno a quell'ora e l'operatore era il numero 54B, non è facile. Allora si tratta semplicemente di avere una sorta di ritrosia che avremmo per strada incontrando la gente, di non dare confidenza a nessuno, specie quando il contatto avviene attraverso internet, avviene telefonicamente. Purtroppo i fatti ci danno, tra virgolette, torto, nel senso che le persone, avendo scoperto che i social network pubblicano, mettono direttamente loro in pasto ai malfattori tutte le informazioni più riservate. Quindi la fotografia della persona da dover mettere su un documento la si trova proprio sul profilo di Facebook, oppure i dati sono scritti lì con indirizzi, numeri, contatti, e uno riesce a creare una sorta di identità parallela che magari ricontatta i vecchi compagni di scuola che non ha mai avuto e chissà tutti i dati dove vanno a finire. Colonnello, io devo salutarla, però insomma la rosa delle raccomandazioni principali l'abbiamo capita. Buona giornata. Ci risentiamo presto, grazie. Alessandro, scappo via. Oggi parliamo degli studi legali low cost, quelli che sono addirittura posizionati nei centri delle città come negozi. Scappi via, torna alle 12. Alle 8.33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Le notizie in primo piano dall'Iran. L'annuncio questa mattina della TV di Stato: è iniziato l'arricchimento al 20% dell'uranio sotto la supervisione dell'Agenzia per l'Energia Atomica dell'ONU. In Italia invece le polemiche per le parole di Massimo Ciancimino, che deponendo ieri al processo contro il generale Mori dice Forza Italia è frutto di una trattativa con la mafia. Il ministro Alfano replica: è un piano per delegittimare il governo dell'antimafia. E infine polemica per Paranormal Activity, il film horror che sta trionfando al botteghino ma che provocherebbe attacchi di panico, e c'è chi chiede che venga vietato ai minori di 18 anni. Alle 8.34 minuti, allora siamo qui a parlare di complotti, siamo un paese di complottisti o di complottari, chi lo sa, il nostro sondaggio di oggi. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24. Allora, Patrizia D'Addario, un complotto, Di Pietro e la CIA, dietro Tangentopoli, complotti, e poi vabbè, insomma, l'11 settembre, John Fitzgerald Kennedy. Ma l'ultimo in ordine di tempo è venuto dal Congresso d'Italia dei Valori, o meglio, vogliamo far ascoltare uno stralcio dell'ampio intervento che Gioacchino Genchi ha fatto al Congresso d'Italia dei Valori. L'oggetto è l'aggressione a Silvio Berlusconi in Piazza del Duomo. Provvidenziale è arrivata quella statuetta, quella miracolosa statuetta della Madonnina del Duomo, che forse il miracolo più grande che ha fatto è stato quello di salvare Silvio Berlusconi dalle dimissioni che sarebbero state imminenti. Io non entro nel merito della dinamica di quell'aggressione, lo stanno facendo tanti giovani che su YouTube si stanno esercitando a vedere quel lancio, rendersi conto che qualcosa di quel lancio non poteva essere vera. E abbiamo assistito a quella pantomima che ha dell'incredibile, perché in qualunque servizio di scorta la personalità va appresa immediatamente e va portata via dal luogo dell'aggressione per impedire la reiterazione, per impedire l'uccisione della scorta e di tante persone inermi che sono presenti. E questo non è avvenuto. E noi abbiamo visto l'uscita di quel fazzolettone enorme, quel fazzolettone nero, che sembrava il fazzoletto da Silvan, da cui sembrava dovesse uscire il coniglio, da cui sembrava dovesse uscire il colombo. E la pantomima che si è recitata là, e dopo il viatico, i denti rotti, la prognosi, non si capisce quali siano stati questi danni. La lettura del bollettino medico, sembrava di vedere Alvaro Bazan con la convalescenza del povero Papa morente, ma poi si è ripreso. Lo abbiamo visto in una foto, col cerottone, un cerottone enorme, delle stesse dimensioni del fazzolettone della microspia, e dopo il fazzolettone è uscito e non si vede niente. Sembra meglio di prima, se di meglio si può parlare parlando di Berlusconi. Gioacchino Genchi, buongiorno. Buongiorno, eccoci qua. C'è? Non ci sente. Gioacchino Genchi, adesso lo recuperiamo. Allora, c'è Giorgio Stracquadagno, onorevole Stracquadagno, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, io volevo partire da Gioacchino Genchi, ma adesso lo recuperiamo. Allora, oggi leggo il Corriere, i periti della Procura, prognosi del Premier tra 20 e 40 giorni, lesioni semplici dall'aggressione di Tartaglia. Allora, Genchi l'abbiamo recuperato, eccoci qua. Genchi, buongiorno. Allora, pantomima, fazzolettone, i giovani su YouTube si esercitano, provvidenziale la statuetta, che lei poi ha smussato, però insomma, sono parole che gridano un complotto? No, guardi, io non ho smussato per nulla, perché tutto quello che sta succedendo è un'ulteriore dimostrazione di quello che vi avevo detto, perché anche questa trasmissione e con il fatto che si stia ancora parlando di questa stupidaggine dimostra ancora una volta che sostanzialmente quando si vuole cambiare la scena politica delle notizie di una nazione se ne creano alcune e se ne inventano delle altre. C'era un giornale in Italia che un giorno sì e l'altro pure attaccava il premier Berlusconi, che era Avvenire, era una parte dei cattolici, di quei cattolici che magari gli avevano pure votato, che lo attaccava. A un certo punto c'è stato un altro giornale che ha pubblicato alcuni articoli sul direttore di quel giornale, e prima che li pubblicasse quel giornale, il 16 agosto, il direttore di quello stesso giornale scrisse un fondo: mi dispiace ma devo dire addio, perché non accettava di pubblicare quelle cose che chi lo stava per sostituire avrebbe pubblicato. Da quel momento il presidente Berlusconi è stato benedetto dalla Chiesa, tutte le sue scappatelle non sono ma state che più... Genchi, che c'entra quella vicenda boffo? C'entra perché basta fotografare un Sircana, perché basta far uscire la foto di Marrazzo, perché basta portare una notizia alterandola, perché io non ho mai detto che l'attentato è una finzione. È stranissimo come una persona abbia potuto agitare una statuetta in mano per 3-4 volte prima di lanciarla, e una persona sia uscita fuori da un anello di protezione di una scorta farlocca fatta in casa, questo è il punto, sì. Di una scorta fatta in casa come le scorte che si è fatto Berlusconi da quando si portò Vittorio Mangano ad Arcore, e si è rimasto là a rimanere, a recitare una parte, entrando, uscendo dalla macchina, agitando quello che era un fazzoletto, quello che doveva essere un sacchetto o qualcos'altro, rimanendo su quel posto senza essere evacuato. Però le chiedo, lei dice è stranissimo, che vuol dire stranissimo? Cioè, vabbè, qualcuno ha fatto un errore, perché sa, lei ha detto è fuori dal protocollo di sicurezza del dato elementare di cui io posso parlare in quanto poliziotto. Io non mi riferisco al momento iniziale. Non l'ho mai fatto, non l'ho mai detto. Però ha detto si esercitano alcuni giovani su YouTube e sappiamo circolano video. Ci sono dei giovani che su YouTube c'è, perché il problema è che voi magari vedete porta a porta, voi vi vedete. Ma no, ma lo sappiamo, 24, però guardi che quelli c'è un'Italia democratica che si vuole informare, sì, che non vede solo il porta a porta e Vespa che continua a dire che io sono il più grande intercettatore, come ha fatto ieri sera per una persona che in vita sua non ha mai intercettato una sola conversazione. Però guardi Cenchi, mi scusi, a noi arrivano le segnalazioni, l'ho visto anch'io, i video su YouTube dicono che è tutto inventato. Capisce che lei ha detto io non ho detto che è tutto inventato, io ho detto lasciamo ai giovani su YouTube che si esercitano a vedere cosa succede. Va bene. Sentiamo... Io non ho assolutamente sposato quella tesi, perché le posso assicurare che nel mio lavoro e nel mio mestiere sono abituato a basarmi sull'assoluta razionalità, e lo confermano 25 anni di risultati processuali del mio lavoro, perché sia chiaro, io non ho mai fatto delle tesi pindari. Io ho valutato invece ciò che è accaduto dal momento in cui quella statuetta è arrivata nella faccia di Berlusconi. Ed è qualcosa di assolutamente grave, assolutamente inusuale. La consolerà, o comunque se ha già visto i giornali oggi leggere che secondo la procura la prognosi è di 20-40 giorni e non 90 come ha detto il medico di Berlusconi? Ha visto, ma si sta accorgendo, questa è la pantomima, ci siamo. Perché, e poi ho fatto un'analisi politica di quella che era la situazione prima che quella statuetta fosse lanciata e di quella che è stata dopo. Fini non ha parlato più, gli si è tappata la bocca. All'interno del centrodestra tutti quei mugugni che stavano per mandare a casa Berlusconi sono cessati. Allora, sentiamo... Sentiamo, è chiara la sua posizione, onorevole Stracquadagno, vuole replicare, insomma... È chiara solo a lei. Questa è una trasmissione dove avremo bisogno di uno psichiatra, non avremo bisogno di un politico o di un giornalista, perché stiamo ascoltando tali e tante di quelle farneticazioni che ho avuto la fortuna di sentire in anteprima a Tele Lombardia in una trasmissione, che non meritano una radio come Radio 24. Io ho accettato il vostro invito perché siete sempre molto cortesi e fate informazione, ma qui siamo nell'ambito della malattia psichiatrica, non vedo altro come definire queste farneticazioni sconclusionate di questo signore. Ma informazione anche questa è Stracquadagno, non per la carità, ma no, ma informazione, voglio dire, Cenchi, vabbè, insomma, questa è la sua... Siamo nell'ambito medico-clinico, ma siamo d'accordo, è informazione, cioè abbiamo a che fare con personaggi che farneticano e diventano protagonisti delle informazioni con le loro farneticazioni. D'altra parte, notizia di oggi che anche un grande filosofo contemporaneo come Bernard de Lavie è cascato nella trappola perché ha creduto all'esistenza di un certo filosofo che non esiste. Un'invenzione, era uno scherzo. Anche Genchi è uno scherzo della comunicazione, ma voglio dire, è uno scherzo che non fa ridere. Voglio dire, Genchi, lei cioè come si pone, nel senso, ho usato uno stralcio di quello che lei ha detto, ma lei ha usato anche parole, cioè ha sbeffeggiato il Presidente del Consiglio, questo lo può dire, ha usato fazzolettoni grandi perché usa oggetti inversamente proporzionali alla sua statura, cioè ha usato anche della terminologia, non lo so se si è lasciato prendere forse dal convegno, dal fatto degli applausi, però ha usato anche un linguaggio così, perché? No, io ho semplicemente messo in fila le pantomime di Berlusconi associandole alla precedente del cimicione che aveva trovato nello studio. Io non ne ho mai messo microspie, ma qualche microspie. Io un cimicione così grande sembrava una cabina telefonica quando denunciò il complotto contro di lui, e poi si è scoperto che gliel'aveva messo uno dei suoi, quella porcheria là che non serviva a nulla. E questo è il Presidente del Consiglio, c'è un uomo di spettacolo, c'è una persona che ha la capacità di stupire. Nel periodo della letteratura. Ma vede, io non capisco appunto questo. Il film La Meraviglia, chi non sa far stupire va dalla striglia, e questo è un marinismo strisciante. Se lei rilegge la storia della letteratura italiana e vede le varie fasi, l'Arcadia, il Romanticismo, eccetera, c'è una certa fase. Ed è il poeta, il film La Meraviglia, chi non sa far stupire va dalla striglia, e questo è Silvio Berlusconi. Questo è un periodo in cui sostanzialmente si è passati al marinismo strisciante. Giovan Battista Marino, fatto uomo, è un uomo di spettacolo. Ma voglio dire, posso appunto dire io questo è anche simpatico. Le posso dire che mi è anche simpatico in certe occasioni, Ma io forse ho l'antidoto per poterlo sentire, per poterlo vedere atteggiarsi quando si muove, perché anche è bravo. Perché ho capito, ma lei dice l'antidoto, cioè l'Italia no, io no, Stracquadagno no, tutti no. Certo, no, no, abbiamo, noi guardiamo solo porta a porta. Se di un congresso di un partito come l'IDV la notizia diventa Genchi, allora è allora io... Eh beh, capisce, lei ha detto delle cose comunque che non potevano passare così. Ma allora il laboratorio della sofisticazione dell'informazione, vero quello che è successo quel giorno là, io ho fatto l'intervento che saranno state le 11. Ho finito l'intervento e dovevo scappare perché dovevo rientrare a Caltanissetta per un'altra manifestazione. È tutto tranquillo, tutto normale, applausi, sono venuti ad abbracciarmi tutti, hanno fatto a gara a chi mi doveva abbracciare per primo, Bellisario, Orlando, addirittura c'era Donati che è riuscito a scalzare a Bellisario e Orlando, e le assicuro che la mole di questi due non è che sia da poco, li conosciamo tutti, ed è venuto ad abbracciare, mi sono dovuto mettere in punta di piedi per poterlo baciare. Vabbè, ho capito, cioè, quindi è colpa nostra, e non poi so, ha fatto quella Stracquadagno, io devo andare un attimo al traffico, Stracquadagno, è colpa nostra, io volevo parlare di complotti in realtà, ma insomma, è colpa nostra. No. Nel senso, guardi, colpa mia, guardi, dei giornalisti, guardi, diamo problema, no, no, no, il complotto è quello che è avvenuto al congresso di un vabbè, c'è anche un attimo, Stracquadagno, in un paese in cui un comico assurge a politico come Beppe Grillo, non c'è nulla di strano che in un congresso del partito si esibisca un comico come Genchi. È tutto qua, siamo alle comiche finali di un partito ridicolo come l'Italia dei Valori, e che è un partito ridicolo e tragico perché fa poi dell'arma giudiziaria e del risentimento contro le persone delle armi politiche, ed è la cosa che mi stupisce, è che il Partito Democratico sia lei con questa banda di figuri, tutto qua. Allora andiamo al traffico, poi cerchiamo di capire, insomma, questa Italia di complotti, siamo un paese di complottari, devo dire che il 68% dice di no di chi vota sul sito, ma tra un attimo. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Allora, siamo un paese con l'ossessione del complotto. Vediamo se due ascoltatori siate rapidi, vi prego. Antonio da Milano, buongiorno. Che ne pensate? Buongiorno. Dunque, secondo me non siamo un paese complottista, non c'è nessun complotto. Per quanto riguarda invece il signor Genchi, devo fargli i complimenti perché è davvero bravo a raccontare le cose. Le racconta con un lirismo che meriterebbe davvero l'attenzione di qualche sceneggiatore di Hollywood. Non sto scherzando, è proprio bravo. Per quanto riguarda anche poi la strutturazione del complotto, devo dire che è molto elaborata. Tra l'altro poi accusa, tra virgolette, i ragazzi che guardano YouTube e di lasciare a YouTube... No, li accusa, dice, ci sono ragazzi che si esercitano su YouTube, lasciamo a loro... Non è che li accusa, anzi forse dice... Sì, ma quello che fa lui è quello di utilizzare un altro strumento, semmai molto più sofisticato, molto più potente, che sono i protocolli di sicurezza, la sua esperienza, a quanto ho capito, per poi fare tutto sommato le stesse cose che fanno i ragazzi su YouTube. Cioè, vabbè, no, questa, vabbè, questa è un po' arzigogolata. Comunque, grazie Antonio. Voglio andare a Viterbo da Riccardo. Buongiorno. Buongiorno. Che dice? Intanto grazie per farmi intervenire nella trasmissione. No, io volevo dire, a proposito di complotti, io non credo che ci siano complotti così ben disegnati e chiaramente reali. Però ci sono dei disegni, perché... Secondo me anche Tangentopoli è stato tutto un disegno politico. Dei disegni politici, sì, perché alla fine, cioè Tangentopoli, qual è stato il risultato? Lei mi dia una risposta su qual è stato il risultato di Tangentopoli. Che ne so, se è azzerata una classe politica, se... appunto, ci sono tanti favore, risultati, ci sono state delle inchieste. Scusi, a favore di chi è stata... Che mi vuol portare azzerata a dire? So già, Di Pietro vuole... No, no, io sto parlando in generale, non parlo di Pietro, neanche lo calcolo perché per me... Vabbè, allora mi dica lei la sua idea qual è? È stata colpita solo una parte. Una politica, parte, non l'altra. Parte in questo c'è il disegno. Va bene, la ringrazio Riccardo. Voglio salutare, ci ha raggiunto Sergio Romano, buongiorno. Buongiorno. Editorialista del Corriere della Sera. Tra l'altro le devo fare i complimenti da ieri, anche fresco vincitore del premio giornalistico e giornalismo. Questi grazie. I miei complimenti personali. Grazie. Insomma, premio fondato Indro Montanelli, dunque conta molto. Lei ha scritto L'ossessione del complotto su qualche giorno fa sul Corriere. Qui ci sono Gioacchino Genchi e Giorgio Stracquadagno che se le stanno dando, ma come piace a noi, ma molto tranquillamente, ma di santa ragione, insomma, sull'idea del complotto. Perché c'è l'ossessione del complotto, secondo lei, nel nostro paese? C'è l'ossessione del complotto e perché? Ma vede, io sarei quasi portato a pensare che è una forma di analfabetismo politico, Voglio dire che si immagina che la realtà sia gestita, sia motivata, dominata da disegni strategici di cui poi tra l'altro è anche difficile comprendere la ragionevolezza. Si pensa che le cose possono accadere sulla base, come dire, di un disegno fatto a tavolino, in segreto, quando poi tutti sappiamo che la realtà è infinitamente più complicata e chiunque metta in atto un'operazione qualsiasi nella speranza di raggiungere un obiettivo deve dare per scontato che lungo la strada c'è quel fenomeno che Clausewitz, parlando della guerra, chiamava la frizione, vale a dire il sopraggiungere di fattori diversi, imprevisti, che rendono i piani più elaborati irrealizzabili. C'è anche una diffidenza verso le istituzioni, cioè non ci si fida delle istituzioni, quindi si pensa che di fronte a un qualsiasi evento politico, di cronaca che riguarda magari personaggi influenti, c'è sempre il burattinaio dietro, perché la verità non è mai quella che ci viene fornita, insomma. Certo, indubbiamente all'origine del complottismo c'è una forte diffidenza delle istituzioni. Le istituzioni sono cattive, sono ingannevoli, sono mendaci, ciò che dicono non è mai vero. Dal momento in cui si parte con questo tipo di premessa è inevitabile che si finisca per immaginare il peggio. Tengo poi presente che questa particolare inclinazione degli italiani è anche enormemente favorita dalla durata nel tempo degli scandali. Sul piano giudiziario una vicenda può durare 30 anni, può durare 40 anni. Allora, naturalmente quanto più dura tanto più è facile immaginare che qualcuno abbia impedito voglia impedire la scoperta della verità, eccetera. Ma tra l'altro poi voglio dire, questa convinzione così primaria e così elementare, per quello ho parlato di analfabetismo, che finisce anche per vedere il complotto là dove invece noi abbiamo assistito in diretta all'avvenimento. Voglio dire, la vicenda dell'11 settembre praticamente è la tragedia più vista, è più vista in diretta, più vista contemporaneamente mentre accadeva. Eppure questo non ha impedito che su non quello è bastato. Venisse montato un anzi cucciolo. Forse è l'evento di cronaca che si porta dietro più complotti della storia. Io vorrei tornare per un attimo da Giorgio Stracquadagno. Onorevole, siamo quasi in chiusura, però complotto no, tartaglia, però il caso Escort da Dario, lì è un complotto, cioè non c'è anche a volte la tendenza a credere a un complotto a uso e consumo quando fa comodo? No, mi perdoni. Vorrei aggiungere alle considerazioni che ha fatto l'ambasciatore Romano una considerazione più specifica per l'Italia, e che è questa, e che per anni noi abbiamo convissuto con un'autentica teoria politica che è stata patrimonio del Partito Comunista e di tutti quanti gravitavano intorno a quel mondo, quella del doppio Stato e della doppia verità, per il quale teoria politica formalizzata, secondo la quale c'era uno Stato ufficiale che rappresentava la legalità e dietro il quale invece c'era uno Stato non ufficiale, deviato, il cui scopo era quello di impedire l'accesso della sinistra al governo e che commetteva le peggiori nefandezze. E in nome di questa teoria sono stati gettate ombre su una serie di fatti che invece sono chiarissimi nel loro accadimento alla luce del sole. Su questo il Presidente Cossiga ci è maestro. Sì. Detto questo, la questione della... da Dario. Quella da Dario, posto che io non sono il direttore di Panorama e quindi sì, non ho fatto certo. Io quel titolo, e che quello è un titolo giornalistico, il punto chiave è semplicemente questo: la signora da Dario è solamente quello che abbiamo visto o qualcuno ha pensato di utilizzare quello che lei si è procurata nel modo in cui se l'è procurata, cioè spiando in casa d'altri? Vede che crede anche lei un po' al complotto quando fa comodo. Io no, io pongo la domanda. No, pone la domanda, insomma. Vabbè, su questa domanda ci fermiamo. Devo fermarmi, veramente ringrazio Sergio Romano, Giorgio Stracquadagno, Gioacchino Genchi per essere stati con noi. Ci fermiamo, continuate a votare sul sito. Voglio ringraziare Gaia Romani oggi in redazione, Peter Bescapè in regia. Ci troviamo dando la linea a Oscar Giannino. Si parla di Italia dei Valori adesso. Complotto anche lì? No, non lo so. Italia dei Valori, la svolta di Salerno con Oscar Giannino. Tra poco noi ci troviamo domattina.